Victoria. Il treno arrivò alla stazione centrale. Era la prima volta che Victoria tornava a Stoccolma da quando Malte era andato a prenderla ad Arlanda. Essere inghiottita dalla folla anonima appena scesa dal treno le diede una sensazione piacevole. Lì non era una moglie ordinata per corrispondenza. Lì non era nessuno. Solo una tra migliaia di altre. Aveva 2 giorni a disposizione. Tanto per cominciare, si sarebbe comprata un vestito adatto. Secondo le istruzioni contenute nella lettera, avrebbe dovuto partecipare a un cocktail su una nave. L'altra donna le aveva mandato 5.000 corone apposta. Non era una cifra paragonabile a quelle con cui la viziava Yuri, ma Victoria non vedeva l'ora di mettersi un po' in tiro, dopo gli anni con Malte. Seguì il cartello dei taxi, incamminandosi lungo la fila di auto in attesa. Nel cielo azzurro brillava un sole che non riusciva a scaldare l'aria. Un tassista le fece subito un cenno, poi le caricò la valigia nel bagagliaio e le aprì la portiera. «Al Grand Hotel, grazie», disse lei dopo essersi seduta. Il conducente annuì e si mise in strada. Victoria non sapeva granché dell'uomo che doveva uccidere, ma la donna che aveva firmato la sua condanna a morte doveva avere le sue ragioni, esattamente come lei le aveva avute per Malte. Victoria era nell'elenco degli invitati alla festa, non sotto il suo vero nome, ma come Natasha Svanberg. La lettera descriveva anche nel dettaglio cosa doveva fare. Prese la fototessera della sua vittima. Aveva occhi chiari e gentili e la mascella forte, con un accenno di sorriso. A giudicare dall'aspetto, non sembrava una persona cattiva o violenta, ma lei sapeva bene che spesso le fotografie nascondevano la vera natura di un uomo. Se poteva regalare a un'altra donna la sensazione di libertà che lei stessa viveva da quando era morto Malte, avrebbe eseguito volentieri le istruzioni della lettera. Il taxi si fermò davanti a un bell'edificio affacciato sullo Strömmen. Victoria riconobbe il Palazzo Reale sulla sponda opposta. Pagò e scese, e prima ancora che l'autista avesse fatto in tempo a posare a terra la valigia, un uomo in uniforme era comparso al suo fianco, offrendosi di prendergliela. «Grazie», disse Victoria con un sorriso. «Dopo di lei», rispose l'uomo tutto impettito.